La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Eccoci qui all'appello, La Rosa Purpurea, il nostro settimanale di cinema qui su Radio 24. Ben ritrovati agli amici in ascolto. Vi ricordo che analizzeremo parte del di nuovo abbondante flusso di uscite, anche questa settimana 14 nuovi film in sala, una vera tonnara, si potrebbe dire. Soprattutto è cominciato il Festival di Cannes, ci sono i primi film che sono stati visti, alcuni arrivano proprio subito nelle sale, a cominciare proprio dal film d'apertura del Festival di Cannes, Grace di Monaco, Grace Kelly, la Grace che tutti ricordiamo, interpretata da Nicole Kidman. Film d'apertura che non ha avuto esattamente un grande successo di critica, per usare un eufemismo, è stato preso a pomodori praticamente. Noi siamo in collegamento con Cannes, dove c'è a prendersi il sole anche decine e decine di film, il nostro Boris Sollazzo. Ciao Boris! Buon pomeriggio a tutti. Non è iniziata benissimo quest'anno, cioè fin d'apertura massacrato da tutte le parti. Beh, è veramente incomprensibile la scelta di Frémaux, anche perché ha creato di sicuro un incidente diplomatico col vicinissimo Principato di Monaco, a 55 chilometri da qui, quindi insomma sembra essere veramente la scelta peggiore in tutti i casi. Film di Olivier Dahan veramente dà l'impressione di essere un pessimo sceneggiato televisivo, con una Nicole Kidman che più aumenta il botox più diminuisce il suo talento, con una storia abbastanza improbabile, perché passa da un simil Lady Diana alla principessa Sissi, ma la parte meno interessante della storia, per finire addirittura a un certo punto a una parodia della Baia dei Porci, perché c'è questo scontro improbabile tra Principato di Monaco e Francia sulle tasse, sul fatto che appunto Monte Carlo esentasse, che però viene presentata come se fosse un thriller politico. Il tutto crea un effetto parodia che lo stile di Dan non aiuta, perché è uno che non sa gestire i toni sopra le righe, spesso è squilibrato nel racconto sia visivo che narrativo, e poi ci sono errori clamorosi, uno per tutti: Tim Roth, che è un principe raniero ossessionato dal protocollo, peccato che poi nella serata più importante che vediamo di gala della Croce Rossa si presenta con le mani in tasca, lui principe di Monaco. Quindi veramente dai dettagli al complesso, Grace di Monaco è un disastro, e i fischi che ha preso qui a Cannes sono assolutamente meritati, anzi, conoscendo Cannes, decisamente generosi. Signor Presidente, vi ho già dato la nostra lealtà. Voi tasserete tutti il Principato. Questa non è una trattativa, è un'estorsione. Hai pensato che De Gaulle cerca una scusa per prendersi Monaco, anche a costo di metterti contro di me? Non dire niente, perché tutto quello che dici ha delle conseguenze. Insomma, il disastro di Grace di Monaco ha aperto il Festival di Cannes, Boris, ma al Festival di Cannes, ovviamente centinaia di film, io voglio segnalarne uno, proprio perché anche questo arriva in sala questa settimana, è un piccolissimo film italiano, si intitola Più buio di mezzanotte, il film italiano della Semaine de la Critique, è un esordio di Sebastiano Riso alla regia, nel cast una bravissima Micaela Ramazzotti, Pippo Del Bono e una stuolo di ragazzini che raccontano i ragazzi fuori della Catania di oggi. Sì, Più buio di mezzanotte è stato invece applaudito alla settimana della critica, è piaciuto, credo sia piaciuto soprattutto a Davide Capone, che è questo protagonista che insomma metterebbe in crisi, farebbe ricredere chiunque, insomma, avendo questa faccia da efebo molto particolare, che è la vera forza del film, ed è forse anche la sua debolezza, perché è talmente bravo Davide Capone ed è talmente in parte, anche per quanto riguarda il viso, è stato scelto su 9.000 provini, che mostra in maniera eccessiva la differenza con gli altri attori, che non sono altrettanto bravi, e anche col tono narrativo, che non è sempre all'altezza delle sue capacità. Hai ragionissima su Micaela Ramazzotti, che è bravissima. La mia scena del cuore di Più buio di mezzanotte è sicuramente quella in cui Capone si avvicina a Micaela Ramazzotti dopo essersi ritrovati dopo tanto tempo sull'autobus, gli sussurra qualcosa di terribile, e Micaela Ramazzotti, senza dire una parola, senza quasi respirare, ci fa capire che cosa si stanno dicendo. E quello è cinema vero, quando non si parla e quando degli impercettibili movimenti del viso parlano. Quindi è un film che forse non è del tutto riuscito, ma che mostra il talento di tante giovani leve che sicuramente si faranno. Allora datelo a vedere più buio di mezzanotte nelle sale, l'esordio di Sebastiano Riso, con tutte le ingenuità di un esordio ovviamente, ma anche con tanta capacità di fare e recepire e rendere cinema, come ha detto Boris, davvero concordo in pieno. Giochiamo insieme con la prima traccia del film epocale, direi, di oggi. Sentiamo. Bisogna sfregare, la barba inzuppare, nell'acqua sguazzare. Non credi che l'umido ci ammazzerà? No, non vi eccitate. Ecco qua. Coraggio ora voi, provate con me. Vedrete che poi difficile non è. E allora, se avete, come immagino, già indovinato di che film si tratta e volete provare a vincere la nuova edizione in Blu-ray di questo film, per i primi due ascoltatori che indovineranno, la Rosa Purpurea @radio24.it è il nostro indirizzo di posta elettronica. Scriveteci il titolo, il vostro nome, cognome e indirizzo. Fra poco avremo una seconda possibilità. Il nostro terzo matrimonio. Sembriamo così giovani. Porta i miei saluti sinceri a quella canaglia romantica con tendenze suicide. Speriamo che sia soltanto romantico. Il fatto che tu te ne stia rinchiuso qui probabilmente attirerà di più l'attenzione sulla tua musica. Già, che rottura. È quella la roba buona? Precisamente. Tipo zero. Negativo. Io proteggo i suoi segreti e anche i vostri. Parole e musica tratte da Solo gli amanti sopravvivono, Only Lovers Left Alive, il nuovo film di Jim Jarmusch che arriva nelle sale questa settimana e che è, a mio modo di vedere, non solo il film della settimana ma uno dei film assolutamente da non perdere di questa stagione. Il ritorno del regista newyorkese, di un regista che quando mette mano sul cinema lo fa sempre in maniera molto personale, molto autorale, e lo fa anche adesso parlando di vampiri, che sono stati il tema, diciamo, di questo decennio cinematografico. Ma non lo sono stati mai come questa volta, dove la condizione vampiresca è una metafora per stabilire in questo film chi è davvero vivo e chi invece non lo è nella nostra società. Solo gli amanti sopravvivono sarà un'orgia di piacere per chi ama la musica, per chi ama le chitarre d'epoca, per chi ama il vinile, per chi ama i vampiri, per chi ama attori come Tilda Swinton, come Mia Wasikowska, ma soprattutto come Tom Hiddleston, il fratello cattivo di Thor, che questa volta furoreggia davvero protagonista. Un film davvero indimenticabile, secondo me, Boris. Sì, è un film che ha tantissime cose interessanti, è un po' come una grande squadra di calcio che ha tantissimi campioni, compreso l'allenatore nel caso di Jim Jarmusch, e anche quando l'azione non è perfetta o anche quando nel momento della partita in cui non si gioca la grande, comunque quello che vedi è talmente bello che basta. E vale, come hai detto tu, per Tilda Swinton e Tom Hiddleston è straordinario, vale per Jim Jarmusch che regala almeno 3 o 4 scene di grandissima regia. Se si vuole trovare un difetto al film è forse nella scrittura, che rende molto bene quando deve far capire il background culturale di chi da cento e più anni vive benissimo, e lo fa cercando di essere rispettoso della vita altrui, cosa che i vampiri normalmente al cinema non fanno, ma anche cercando di acculturarsi. Bellissima la scena di Tangeri, bellissime le scene di musica con un giovane attore, a mio parere sottovalutatissimo, come Anthony Yelchin. Come dici tu, c'è tanto tanto talento, c'è tanta arte, c'è tanto tanto cinema, e questo rende Solo gli amanti sopravvivono comunque un film imperdibile anche nei momenti meno riusciti. E allora, Solo gli amanti sopravvivono sullo sfondo, tra l'altro, di una Detroit davvero da post-apocalisse, sempre notturna, sempre periferica, sempre abbandonata a se stessa. Invece la vita pulsa, come dicevi tu, Boris, nella Tangeri che viene appunto rappresentata nelle scene importanti del film. Tra l'altro questo titolo originale, Only Lovers Left Alive, che è leggermente diverso come significato da solo gli amanti sopravvivono, significherà qualcosa dopo i titoli di coda, quindi te lo dico a chi andrà a vederlo. E fra chi andrà a vederlo ci saranno 5 coppie di nostri ascoltatori, perché La Rosa Purpurea, come sempre, il buon cinema cerca di regalarvelo più che può. E allora i primi 5 che da questo momento scriveranno un SMS al 349-238-6666 per manifestare la loro intenzione di andare al cinema a vedere Solo gli amanti sopravvivono, riceveranno 5 coppie di biglietti per andarlo a vedere in qualsiasi sala italiana. Da questo momento 349-238-6666. La Rosa Purpurea. Ancora insieme a parlare di cinema, La Rosa Purpurea. Se un campione di qualità questa settimana ce l'ha Solo gli amanti sopravvivono di Jim Jarmusch, il campione di incassi è scritto e inciso nella pietra, si chiama Godzilla. Voglio parlare con qualcuno che comanda. Non vi crede nessuno quando dite che quello che è successo è una calamità naturale. Mentite. Non era un terremoto, non era un tifone. Perché la verità è che nascondete qualcosa là fuori. Ed è qualcosa che ci rimanderà all'età della pietra! E allora, questo è un po' il sunto, diciamo, della premessa. I mostri si risvegliano, si fanno sentire, ma i soliti cattivi militari, il governo, eccetera, eccetera, eccetera, dicono che sono calamità naturali. In realtà gli scienziati dicono, invece, uno scienziato in particolare, che non sono calamità naturali, ma che sono invece lucertoloni, che tra l'altro questa volta faranno un po' la battaglia fra di loro. Boris, non è la prima volta di Godzilla, anche in tempi recenti sul grande schermo, non mi sembra ci siano grandissime novità. No, non ce ne sono affatto. Viene da pensare che chi l'aveva fatto prima almeno aveva tentato qualche rischio, anche forse andando peggio di questo Godzilla, però perlomeno aveva cercato di andare su una strada diversa. Questo è un Godzilla che non porta nessuna sorpresa, che rispetto al trailer che abbiamo sentito ci dice poco altro, se ci vediamo tutte e due le ore. La recitazione, anche se insomma in un film di mostri forse non è così importante, è abbastanza imbarazzante. Penso a Taylor Johnson, è una delle sorelle Olsen, Elizabeth, ma anche a tutti i comprimari. Ci sono comunque attori di livello come Sally Hawkins, Strathairn, Watanabe, che veramente danno il minimo sindacale, probabilmente perché poco motivati da un copione e da dei dialoghi abbastanza imbarazzanti. Il resto sì, è un film di mostri in cui, quando i mostri si rendono protagonisti, effettivamente ci sono scene molto interessanti, ma anche in quel caso poi si arriva a un punto in cui si minimizza il loro impatto e non ci si gode neanche diciamo il film fracassone, perché finisce tutto troppo presto nonostante duri due ore. Francamente, insomma, Godzilla non mi ha entusiasmato, lo dico a bassa voce perché potrebbe sempre aggredirmi ed è abbastanza grosso. E allora speriamo di no, che non si manifesti dal mare della Baia di Cannes, sarebbe un problema. Andiamo con la seconda traccia del nostro game di oggi. Arrivederci a stasera. Andiamo, amici. Ancora? Va bene. Però è l'ultimo. E allora, se avete indovinato di che film si tratta, La Rosa Purpurea, @radio24.it, il nostro indirizzo di posta elettronica, scriveteci il titolo del film, il vostro nome, cognome e indirizzo, provate a vincere le due copie in palio di questo film, di questo capolavoro di tanti, tantissimi anni fa, che sicuramente molti di voi avranno amato. Chiaramente settimana prossima sveleremo l'identità dei vincitori. Boris, c'è anche questa settimana, in mezzo a queste 14 uscite, l'addio cinematografico, ai noi, perché l'addio alla vita ce l'ha dato qualche mese fa, di James Gandolfini. Si intitola Non dico altro, sentiamo questa clip. Lei è una massaggiatrice? Esatto, lei invece cosa fa? Sono una poetessa. Oh, e io una sognatrice. No, davvero. Oh, è davvero una poetessa? Sì. Oh. E lui è Albert. Ehi. Eva mi stava dicendo che non c'è un uomo a questa festa da cui si senta attratta. Come? Davvero? È piuttosto flaccido e di mezza età. E indossi il pigiama? Sto più comodo. Che c'è? Sto vedendo il tuo pene. Cosa? Oh mio Dio. Ma lo trovo affascinante. Ci diamo un bacio? Sì. Una commedia, Boris, per questo omone robusto, simpatico, con un sorriso che ti calamitava per appunto quello che è di fatto il suo addio cinematografico. È un bell'addio perché lo rappresenta molto. Non parliamo di cinema d'autore, di un capolavoro, ma di un melodramma, di un film di genere in cui lui dava il meglio. Lui è ancora più colossale di altre volte. Si scherza incredibilmente, l'ironia della sorte del cinema, sul suo stato di salute più volte durante il film. Si parla del suo peso, si parla del suo respiro affannoso. Davvero è amarissimo pensare poi a quello che è successo, però è anche indicativo del suo stato di salute. Però non stiamo parlando, insomma, di una cartella clinica, ma stiamo parlando di un grande attore. E questo è anche un piccolo grande film, perché insieme a Tony Collette, insieme a Catherine Keener, insieme a comunque una bella compagnia di attori, a una brava regista, si racconta l'amore dalla parte della paura, cioè di tutti quegli errori che si fanno, stupidi, immaturi, anche in età più avanzata, solo perché ci si vuole proteggere e invece ci si butta in un abisso di infelicità che si poteva tranquillamente evitare. Una storia semplice, una storia molto dolce, un grandissimo attore in tutti i sensi, che purtroppo abbiamo perduto. Senza retorica, questo film dimostra nella sua normalità quanto fosse eccezionale James Gandolfini. Ecco, Boris, prima di lasciarti ai film del Festival di Cannes, io volevo parlare di un altro film italiano che esce questo fine settimana, e vale un po' il discorso che abbiamo fatto per Più buio di mezzanotte, un altro film che analizza la realtà contemporanea con un taglio molto originale, si intitola Padre Vostro, e anche questo ci racconta di un cinema italiano irredento. Padre Vostro è forse la chicca di questa settimana, se Jarmusch è il film della settimana, è la chicca di questa settimana, veramente un film gradevole, veramente un film intelligente, diciamo su un prete, un padre, che decide di aiutare il proprio Dio a modo suo, con una soluzione molto prosaica, molto divertente. Non dico molto altro, dico che si parla di procreazione, perché è davvero divertente scoprirlo questo film. Non vi aspettate, anche se siamo nei Balcani, perché è ambientato lì, un Kusturica, è tutt'altra cosa, brevissimo Vinko Bresan, però veramente ci si chiede perché la nostra distribuzione non ponga un po' più di attenzione invece di far fare la guerra a piccoli film che meriterebbero tutti il loro spazio. E allora, in attesa di una risposta che ai noi penso che non arriverà prestissimo, io ringrazio Boris Sollazzo, goditi Cannes e ci risentiamo la prossima settimana. Lo farò alla prossima settimana, buon cinema. E allora è giunto il momento di rivelare i vincitori e anche il titolo del nostro film misterioso della scorsa settimana. Ti piace perché ti ricorda qualche altro posto? No, non è per questo. Mi piace e basta tutto qui. Non deve essere per forza simile ad un altro posto? No. E io ti ricordo qualcun altro? Sì, tu sì. Qualcuno che ti manca? Qualcuno che è morto. Un grande cast agli ordini di Ridley Scott per The Counselor, il procuratore, un film di questa stagione, uscito proprio nel gennaio scorso e adesso disponibile in on video nella nostra edizione Blu-ray, quella che riceveranno i nostri due vincitori, che sono Maria Giovanna Sparaco di Ferrara e Fabiano Rocco di Carbonate, provincia di Como. Saranno loro a ricevere appunto una copia del Blu-ray di The Counselor. Noi siamo già in collegamento con gli amici del settimanale Film TV, con Giulio San Giorgio, che saluto. Ciao Giulio. Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori. Sì, The Counselor, il procuratore, uscita che attendevamo con ansia, questa marchiata Fox, perché ci dà la possibilità di rivedere in versione estesa e senza censure quello che per me almeno è uno dei migliori e più sottovalutati film della stagione, un noir livido, crudo e capace di cogliere lo spirito del tempo, assolutamente senza speranze, anche quella di comprendere la trama degli eventi ordita da un oscuro potere. Scritto da un grandissimo narratore come Cormac McCarthy, diretto da Ridley Scott, come dicevi tu, con un cast assolutamente stellare. Ci sono tanti extra, ma soprattutto quei 20 minuti in più che non avevamo visto al cinema, che sono torbidi e intrisi di un lucidissimo nichilismo. E tra l'altro bisogna anche dire che purtroppo questa cosa dei film che arrivano in sala con i 20 minuti in meno, guarda anche adesso Nymphomaniac per dirne un altro, ma sono tanti, sono sempre di più, direi sono troppi, tanto danno linfa vitale all'home video, perché poi vai a vedere e soprattutto cambiano in maniera determinante molto spesso il senso delle opere dei registi. cast stellare, ricordiamo i nomi: Michael Fassbender, Penelope Cruz, Cameron Diaz, Javier Bardem, Brad Pitt, insomma, come dire, una sorta di dream team hollywoodiano. Allora, questo era The Counselor, il film della scorsa settimana, il nostro gioco della scorsa settimana, ma come sempre con gli amici di Film TV andiamo a sfrugugliare un pochino anche i palinsesti televisivi della prossima settimana alla ricerca di proposte originali cinematografiche da vedere sul piccolo schermo. E quella di oggi, Giulio, è davvero molto originale. Si intitola Les Antichités de Rome, è un film della fine degli anni Ottanta e passerà domenica 18 maggio su Rai 3. Sì, domani notte all'1:30, un film di un regista marginale, segreto, che risponde al nome di Jean-Claude Rousseau, ispirato al poeta Joaquin Dubellé, si apre con due suoi versi, ovvero: nuovo venuto che cerchi Roma in Roma e nulla di Roma in Roma scorgi, e continua con una serie di vedute della capitale stampata su bobine in Super 8 di 2 minuti e mezzo in un cinema miracoloso che restituisce la poesia di un momento tra i monumenti della città eterna. Decisamente radicale, ma da non perdere. La grande bellezza vista con gli occhi di Jean-Claude Rousseau, potremmo dire. Domenica 18 maggio, Rai 3, 1:30 di notte. Non perdetelo, perché è davvero una chicca. Grazie Giulio, appuntamento alla prossima settimana. Ciao Franco, alla prossima. E siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione con le segnalazioni degli amici di Film TV. Noi vi diamo appuntamento alla prossima settimana qui come sempre alle 16 su Radio 24 il sabato per raccontarvi tutto il cinema che c'è alla Rosa Purpurea. Un saluto da Franco D'Assisti.